che avevi uno sguardo felice, mentre parlavi ti tremava le mani perché non dicevi quel che volevi e cioè che mi ami. Io mi ricordo lo sguardo che avevi mentre cantavi la sera perché non ti siedi per terra, dicevi. Poi la solita guerra di baci e non avrei più paura, ti darò un po' di coraggio e non avrai più paura mai più. E col pensiero riesco a tornare alla sabbia che scotta e davanti c'è il mare. Guardati come sei bella, ora ti voglio baciare. E rivedo le lune lottate quando la luna ascolta le persone.